Eccoci, buonasera, benvenuti alla consueta diretta di Radio Wombat dalle 19 alle 21, in questo caso dalle 19.30 perché Lullo dei Balcani ha fatto una trasmissione un pochettino più lunga del solito, un saluto tra l'altro a Lullo dei Balcani e quindi la diretta di stasera durerà un'ora e mezza, dalle 19.30 alle 21. Però intanto ci presentiamo, non so se ci avete riconosciuti dalla sigla e dalla voce. Io sono Nina. E qui c'è 8 Hertz. Quindi la battle galattica che da tanto si prospettava sulle frequenze del Wombat questa sera avrà finalmente luogo. No, non è proprio così. Ci siamo trovati in una di queste regie bunker sparse per la città del Giglio, in perfetta ottemperanza delle disposizioni, e siamo insieme questa sera non per fare il punto sulla situazione coronavirus, non per parlare nello specifico di questo problema e di tutte le conseguenze che sta arrecando a tutti noi, ma per fondere un po' le trasmissioni dell'Accademia della Brusca e 8 Hertz. Una piccola comunicazione di servizio, mi piange il cuore, ma l'Accademia della Brusca è momentaneamente sospesa e Nina e Nenia hanno bisogno di lavorare gomito gomito, braccio a braccio, guardandosi negli occhi per la miriade di cazzate che dicono, e quindi, parlando sempre in terza persona, vi danno appuntamento a quando tutto questo finirà e potremo finalmente riabbracciare la regia di Radio Wombat. Dunque, che dire? Questa sera sarà un viaggio lisergico, come potete sentire anche dalle frequenze. Non poteva essere altrimenti. Esatto, come aggiunge il buon 8 Hertz, tra musica e alcune parole. Alcune parole che hanno una radice in comune, una radice molto importante, molto antica, che è Pan, però di questo ve ne parleremo tra pochi minuti. Intanto vi deliziamo con un pezzo selezionato proprio dal nostro 8 Hertz. Buon appetito! Mangia! Che fa sangue. Eh sì, ho giusto un po' d'appetito. Un po' di codichino? Fammi finire il primo. Dammi tempo di finire il primo. Un po' di mascarpone? Fammi respirare. Dammi qualche respiro. Bevi, ingozza meglio, bevi, che ti angozzi, te rimane angozzata. Fa la scarpetta, falla! Un consiglio mio, non perde st'occasione. Vorrei sta un po' leggero. Magna, che te la ficco in gola la scarpetta! E di secondo, abbacchietto! Un po' di verdura, ci sta! Che ci fai con la verdura? La verdura sciacqua! Qui dobbiamo inzozzare! Grazie, no! E di contorno una bella patata fritta, intera, rotonda, fritta. Te! E non si poteva tagliare? No, l'ho fritta apposta, tutta intera, così ti ingozza. Te fa da tappo qua, l'apprezzi meglio. Hai mangiato? Ti sei saziato? E un dolcetto non te lo fai? Un dolcino? Un goccetto di dolcino? Sono sazio. Frutto di mare o di bosco? La banana. Ma te stai a saziare? Sto piegato. Non ce la faccio manco a bestemmiare. Ma te sei saziato, sì. Sono sazio. Per cena? Prima che te ne vai ho comprato i savoiardi per domani mattina su all'ovo, su gonfi d'ovo. Inizia alla grande e ci rivediamo direttamente per pranzo. Anzi, a proposito, io per non ripetermi, domani a pranzo, c'hai qualche idea? Oreste, hai mangiato? Te sei saziato? È sangue! No! È sugo! Il mitico Antonio Rezza, in uno dei suoi sketch forse più conosciuti, correva l'anno 92 circa, e non so se avete avuto modo di vederlo un paio di mesi fa, prima che tutto questo casino ci relegasse nelle rispettive abitazioni, per al Bottegone di Prato. Ha fatto uno spettacolo, anzi due spettacoli, veramente veramente belli. Vi consiglio di seguirlo e, quando torneremo liberi, ovviamente, di andarvelo a cercare nei vari teatri. Chiusa questa parentesi, è arrivato il momento di parlare un po' di quello che è il tema della serata, questo pan. Dunque, pan è una radice comune a tantissime parole, così io inizio proprio senza darvi manco il tempo di bestemmiare. È il primo elemento di davvero moltissime parole composte che, diciamo, transita da quella che è la terminologia scientifica e deriva ovviamente dalla terminologia scientifica tante altre parole di uso comune, però prettamente parole che appartengono anche alla filosofia, che, strano ma vero, è uno, diciamo, una degli insiemi di cui parleremo stasera. Ed è una radice che deriva dal greco e significa tutto, interamente. Ricordatevi però che davanti a una B labiale si assimila nella pronuncia e si scrive pam, ok? Ma insomma, quali sono le parole di questa sera? Partiamo con il classicone, con quella che ci sta ammorbando ormai da settimane, pandemia. Che con un semplice gioco di spostamento d'accenti diventa una parola con un significato completamente diverso. Poi sarà l'ora del panlogismo, del panopticon e infine della pandroginia, pan, andro e gini. Partiamo però con la nostra pandemia, ovvero un sostantivo femminile che raggruppa al suo interno due parole greche, appunto pan, tutto, e demos, il popolo. Quindi un'epidemia con una tendenza a diffondersi ovunque e a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. Abbiamo la pandemia influenzale, la pandemia di vaiolo e ovviamente la pandemia di coronavirus. Ma vi abbiamo fatto una promessa, abbiamo detto che questa sera non parleremo esclusivamente, anzi forse non parleremo quasi per nulla del virus, eppure utilizzeremo un sacco di terminologie che ci possono aiutare per sfangarla meglio e per riflettere su quanto sta succedendo intorno a noi e dentro le nostre case, ovviamente. Facciamo un gioco. Se io da pandemia sposto l'accento e dico pandemia, che cosa vi sto dicendo? Con questo semplice spostamento andiamo sempre nell'antica Grecia, ma parliamo di pandemio e pandemia, ovvero gli epiteti di Eros e di Afrodite, quindi le divinità dell'appetito sessuale, se così le vogliamo chiamare. Questa terminologia, pandemia e pandemio, nelle sfere alte, più alte della letteratura, sono rimaste come espressioni, per esempio la Venere pandemia, o una casa pandemia, quindi un bordello, ed è ciò che ci auguriamo succeda quando finalmente saremo tutti di nuovo liberi. Ma c'è un legame effettivamente tra il pandemio e le pandemie di cui parlano i giornali? Bene, se fate un giro su unaparolaalgiorno.it, che è un sito e un contenitore in realtà creato da due ragazzi fiorentini, completamente gratuito, potete non solo attingere a davvero una parola al giorno, quindi per divertirvi arricchire un pochettino il lessico che utilizziamo tutti i giorni e che se no diventa noioso, ma potete anche approfondire la differenza tra pandemia e pandemia. Pandemia e pandemia, o pandemia e pandemia, quindi la relazione che intercorre tra questi due termini, no? Io ve ne cito giusto un piccolo frammento. Allora, ma che legame c'è fra pandemia e le pandemie di cui parlano spesso i giornali? La pandemia è un'epidemia pervasiva, una malattia che si diffonde su ampissima scala, magari globale, e quindi in questo senso è una cosa di tutti. E quindi vediamo come la radice pan accomuni entrambe le parole, con due sfumature ovviamente diverse e questo accento su due vocali differenti che ci fa capire insomma come in realtà si stia parlando di due tematiche fondamentalmente opposte. Ti piaceva questo parallelismo? Non so che cosa ne pensa il qui presente 8 Hertz, se ha ascoltato e se ha recepito la lezione. Dice di no, dice assolutamente no, perché è impegnatissimo con i suoi mix e quindi, visto che è così impegnato, ritorniamo un attimo sul tema del coronavirus. E state mangiando in questi giorni a casa? Ve lo chiediamo proprio perché questo pezzo ha il titolo di un alimento piuttosto noto e piuttosto odiato. Sì, a breve sentirete ovviamente anche in questo caso con la Radio Wombat esempio del coronavirus, non potevo non mettere i Coil e quindi ti faccio sentire questo bellissimo pezzo che si chiama Broccoli, che appunto potete trovare nei migliori supermercati e non fanno male, sono a vederli, sono anche molto belli, pieni di vitamina D. quindi Coil, Broccoli, tratto da Music to Play in the Dark, non mi ricordo il volume, scusatemi, non ho preso appunti perché sto manovrando come un tipo che sta al sottomarino ai comandi, diciamo. Intanto buon ascolto, Coil. greens, especially broccoli. Wise words from the departing. Wear sensible shoes, especially broccoli. And always say thank you. Remember to, especially for the things you never had. Wise words from the departing. The soil we cultivate, the sky. By working the soil, we cultivate the sky. And enter the vegetable kingdom of our own heaven. The death of, by working the soil. Working the soil, you cultivate good manners. Is to say please and thank you, especially for the things you never had. Eat your greens, especially broccoli. Remember to say thank you for the things you haven't had. Wise words from the departing. Eat your greens, especially broccoli. And always say thank you, especially for broccoli. Questa cosa vi volevo, vorrei dire che c'è questo mio amico che ogni anno, fino a che era sano di mente, cioè comunque non è mai stato più sano di mente, ogni anno faceva il Broccoli Day in omaggio ai Coil. Praticamente le persone dovevano cucinare, andavano a casa sua e ognuno portava una cosa fatta con i broccoli, che poteva essere appunto da, ovviamente dal salato come il contorno o la pasta con i broccoli, ai dolci o anche agli infusi sia analcolici che alcolici, ecco. E quindi insomma lo saluto, e saluto anche tutti quelli che ci stanno scrivendo, che sono attaccati e dicono che è una gran figata. siete su Radio Bombat e questo sarebbe la radio ai tempi del coronavirus, un po' un mix tra l'Accademia della Brusca e 8 Hertz. L'Accademia della Brusca, che vi ricorda, vi dà semplicemente un arrivederci alla fine della pandemia. E io comunque sono Nina e niente, mi manca tanto già la mia nene nella nostra trasmissione. Comunque, bando alle ciance, bando ai lacrimoni, grazie anche per questa, per questo racconto che 8 Hertz ci ha dato dell'amico broccoliano. E ricordatevi sempre di essere grati ai broccoli e a tutto quello che non avete, come ci raccontano e ci dicono i magici ed eterni coil. E proprio sui coil mi verrebbe da inserire in realtà una parola fuori programma: pandemia, pandemia e pandemonio. Dove lo mettiamo? Il pandemonio non ha assolutamente una radice comune, anzi non deriva dalla radice pan, e soprattutto non significa pane del diavolo. Però mi pareva ci stesse bene questo frangente e in questo tema, non soltanto della trasmissione ma anche in questo momento storico. Allora, il pandemonio che cos'è? È un putiferio, una parola che non ha niente a vedere, che non ha nulla a che vedere con quanto abbiamo detto prima. Ed è un neologismo dello scrittore inglese Milton, che nel 1667 scrisse il poema Paradise Lost e inventò, creò proprio questa parola per designare, per indicare la capitale dell'inferno. Il pandemonio è quindi un putiferio e Pandemonium è questa capitale. E mi sembrava comunque un parallelismo molto carino, dalla pandemia al pandemonio il passo è piuttosto breve. Ma forse c'è un contributo audio che arriva per parlare proprio della fine della capitale dell'inferno. Scusate, faccio un po' di fatica a parlare con questo microfono stasera, sono un po' fuori esercizio. E dell'inferno in terra, che cosa succederebbe? Cosa fareste se a tavola questa sera arrivasse un ospite inatteso? Vi suonassero alla porta e ok, siamo in tempo di pandemia, sicuramente non lo potete fare, ma fossimo in un periodo storico normale, cosa fareste? I Monty Python ce lo hanno già raccontato 30 anni fa. È venuto per la siepe? Senta, sono davvero spiacente. Io sono il tristo mietitore. Chi? Il tristo mietitore. Sì, capisco. Io sono la morte. Sì, beh, il fatto è che abbiamo degli ospiti americani a cena stasera e chi non credo è caro? Che sia. Pare sia un certo signor La Morte venuto per la mietitura. Non credo che ci serva per il momento. Salve! Vengono a lasciare fuori dalla porta, caro. Falla accomodare. Tesoro, non credo che sia il momento adatto. Oh, venga dentro, si accomodi. Entri pure a bere qualcosa. Su, avanti! Abbiamo passato l'ultimo weekend dei Whitman. Ehi, è uno dei contadini del villaggio. Su, si accomodi, prego. Questo è Howard Katzenberg di Filadelfia. Salve. E sua moglie Debbie? Ehi, là, come va? E loro sono i Portland Smite, Jeremy e Fiona. Buonasera. Il signor La Morte, gente. Beh, vuoi dargli qualcosa da bere, caro? Oh, certo. È un mietitore, il signor La Morte. Il tristo mietito. Era uccidere normale con questo clima? Così lei si occupa di mietitura qui in giro, eh? Io sono il tristo mietitore. Impressione che non sappia dire altro. Ecco il suo drink, signor Lamorte. Su, si sieda. Stavamo giusto parlando di alcuni dei brutti problemi che affliggono l'umanità e... Preferirebbe del bianco. Sa, mi dispiace, ma non abbiamo birra. La caciottina è deliziosa. Io non sono di questo mondo. Oh, santo cielo. Io sono la morte. No, beh, ma non è straordinario. Parlavamo della morte appena 5 minuti fa. Mm-hmm. Sì, proprio così. Dicevamo se la morte è veramente la fine. Come pensa Howard, mio marito? Oppure no, ma è solo che gli uomini odiano usare parole come anima o spirito. Sì, ma quali altre parole si possono usare? Già, quali? Voi altri non capite. No, evidentemente no. Lasci che le dica una cosa, signor Lamorte. No! Un momento, vorrei solo dire a nome di tutti quelli che sono qui quale straordinaria esperienza è questa. Sì, Bendis. Siamo così felici che lei sia capitato qui, signor Lamorte. Mi fate finire, prego. Uff, signor Lamorte, esiste un'altra vita. Cara, vuoi aspettare un momento per... Insomma, sì, insomma, non volere un po' di scelta, Angela, Angela, vorrei dire solo una cosa adesso, se permettete. Sta zitto. Posso dire solo questo, per favore? Silenzio. Io sono venuto per voi. Vuol dire... Oh no. Per portarvi via. È questo il mio scopo. Io sono la morte. Beh, questo rattrista un po' la serata, non trovate? Io non la vedo così, Jeff. Lasciatemi dire di cosa penso si tratti. Un'esperienza potenzialmente istruttiva che può anche dare... Chiudi il becco, sta zitto, americano! Non fate altro che parlare, voi americani. Parlate, parlate, dite, lasciate che vi dica una cosa. Io devo dire una cosa. Voi siete morti ormai, perciò state zitti. Cosa? Morti. Tutti noi? Sì, tutti voi. Ora stia a sentire, lei piomba qui senza essere invitato, rompe i bicchieri e poi annuncia disinvoltamente che siamo tutti morti. Beh, voglio ricordarle che lei è ospite in questa casa e quindi... Silenzio! Voi inglesi siete così fottutamente pomposi. Nessuno di voi ha le palle. Posso farle una domanda? Cosa? Come possiamo essere morti tutti quanti insieme? La mousse di salmone. Cara, non avrai mica usato del salmone in scatola? Io mi sento terribilmente imbarazzata. Adesso è giunta l'ora. Venite. Seguitemi. Era solo una prova. Scusi. Seguitemi adesso. Venite. Il pescivendolo mi aveva assicurato che il salmone era freschissimo. E in genere è una persona così affidabile. Possiamo portarci il bicchiere. Io non capisco proprio come sia successo. Ottima idea. Andiamo su. Venite, venite. Ehi. Ma io non l'ho mangiata, la mousse. Sinceramente, caro, sono molto imbarazzata. È una cosa davvero imbarazzante. Insomma, servire salmone portatore di botulismo ad un party, socialmente è morire. Ma su, non fare così. Dobbiamo prendere le macchine. Perché no? Sì, buona idea. Ma sì, prendiamo queste macchine. Ci vediamo lì, va bene. D'accordo. Ci vediamo lì. Non ritardate come al solito, eh? Socialmente imbarazzante. Monty Python, io sono il tristo mietitore, se non l'ho visto. ci arriva un messaggio dalla costa tirrenica e ci dicono che Pan, ovviamente, eludendo alla radice del nome, di queste parole che vi sto elencando, era ovviamente anche un dio, e ci specificano nella mitologia celtica era chiamato Horned God, quindi il dio maschile della cultura celtica, il dio cornuto o con le corna, che era pan femminista e in armonia con la natura. Grazie quindi per questa specifica che ci stava effettivamente, perché non abbiamo parlato di Pan come dio e quindi abbiamo avuto modo anche l'occasione di fare questa piccola e dovutissima parentesi. Non dimentichiamo mai le nostre origini. Però ora torniamo con i piedi sulla terra, ben saldi e ben piantati nella realtà, perché la seconda parola è panlogismo, una parola cara a Hegel, sicuramente, o meglio a Erdmann, ai noi, il massimo esponente della destra hegeliana. Panlogismo, costrutto di pan, tutto, e logos, ragione. Non staremo qui a sindacare, a discettare su quanto fosse di destra e filo prussiana la destra hegeliana, non stiamo a fare sproloqui sulla filosofia. Ora arriverò molto breve al dunque. Perché? Perché Hegel, nella sua primissima gioventù, è stato quasi, non del tutto, ma quasi un anarchico. E tra un po' vedremo perché. Ce lo spiega Carmilla in un articolo molto interessante. Ma facciamo. Che cos'è questo panlogismo? È una concezione molto ferrea, secondo la quale tutto il reale può essere ricondotto a semplici elementi razionali. Allora, è una visione filosofica che ha una lunga storia in realtà questa. Parte dalla dottrina delle idee di Platone e arriva, plana nelle grandi metafisiche razionaliste Non so che cosa sta facendo 8 Hertz, ma sento dei suoni strani. Si sta divertendo con la mia voce. E il termine però panlogismo è stato coniato nel XIX secolo, quasi come se Hegel non ne sapesse nulla, quasi siccome se tutto questo fosse stato quasi fatto alle sue spalle. Perché? Perché il pensiero di Hegel è stato frammentato in due parti. Ce l'hanno spiegato tante volte, se avete fatto il liceo, il professore di filosofia vi ha fatto una testa così, destra e sinistra. E quindi appunto questo termine, coniato nel XIX secolo da Erdmann, si riferisce a un aspetto fondamentale della filosofia di Hegel e che si assume in un motto, diciamo: ciò che è razionale è reale e ciò che è reale è razionale. Mi sembra un motto abbastanza, come dire, non troppo critico, abbastanza ferreo e abbastanza applicabile alla realtà che stiamo, insomma, un po' vivendo e che ci circonda. E però una domanda, come direbbe Lubrano, o forse era Marzullo, che diceva: la domanda sorge spontanea, forse era Lubrano. Quindi, insospettabili sono i tre. Che cosa c'entra Hegel con la pandemia? Ce lo spiega Carmilla in un articolo del 26 marzo scorso, intitolato proprio Hegel ai tempi della pandemia. E in particolare ci parla di un libro di Vladimiro Jacquet, che è un economista in realtà, e un economista che ci parla di Hegel e che quasi lo ripristina a un livello politico, o anzi apolitico, accettabile. E in questo volume, che si chiama La dialettica e che è edito da Diarcos, casa editrice che effettivamente non conosco, ed è un'uscita di pochi mesi fa, perché mi pare sia di febbraio 2020. Prima però di entrare nel vivo di questa questione qui, del parlare di Hegel come filosofo ufficiale dell'assolutismo prussiano, ma non solo, come filosofo in realtà che durante la sua giovinezza ha causato un sacco di problemi. Ci ascoltiamo un pezzo piuttosto lungo ma veramente bello di Michael Newman, che si chiama Memorial. Sì, è un pezzo, si chiama appunto Memorial, è conosciuto tra i più per essere uno dei brani importanti della colonna sonora del Cuoco, il ladro, sua moglie, l'amante. Sapete che Michael Newman ha fatto varie colonne sonore per Peter Greenaway, o secondo me tra i film più belli i suoi, insomma. E questo mi pare sia dell'89 il film, se non sbaglio. E questo tra l'altro bellissimo, che appunto riprende un po' quello che diceva Nina sul panlogismo, sull'essere, diciamo, non so, così chiari e evidenti, logici, di una freddezza impressionante, riesci pure a fare delle cose così belle. Ascoltatevelo intanto, Memorial di Michael Newman, tratto da Il cuoco e il ladro, sua moglie e l'amante. In inglese non ve lo sto a dire. Ci arrivano tantissimi messaggi questa sera e un nostro ascoltatore di Firenze giustamente ci dice: Hegel ci sta sul culo, la destra e la sinistra, è verissimo. E poi dopo vi spiegheremo il perché di questo articolo. Io lo quoto, e come ci scriveva questo ascoltatore, questo amico, Hegel non andrebbe letto tutto. Effettivamente quindi andrebbe letto forse un decimo di quello che ha scritto. Heidegger manco a parlarne, che sia chiaro. Thank you. 12 minuti decisamente pazzoidi. Si passa dal barocco alla marcia funebre sghemba con Niemann. E tra l'altro Niemann è stato a Firenze, non mi ricordo quando, se a settembre o all'inizio dell'estate, ed è stato effettivamente una grandissima delusione, perché ha mostrato questo suo cortometraggio, questo suo lavoro sui terremoti, ed era effettivamente una roba raffazzonatissima. È stato una delle tante delusioni del 2019, che probabilmente, come dire, proseguiranno in questo 2020. Ma per rovinarvi ancora di più la serata, ora parleremo di Hegel. No, vabbè, c'è questo articolo di Carmilla Online, di cui vi parlavo prima, che è effettivamente interessante e che vado a leggervi. Quando sarà nuovamente possibile viaggiare e vi capiterà di andare a Berlino, concedetevi una visita al cimitero di Dorotheenstadt, entrata al civico 126 di Schausestrasse. Sulla destra si trova la casa dove abitarono Bertolt Brecht e Helene Weigel, anzi Weigel, scusate. Ma voi senza indugio immergetevi nella selva di monumenti funebri classicheggianti alla ricerca dell'ultima dimora terrestre di Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nato 250 anni fa e morto nel 1831, guardate un po', di colera. Sempre di pandemia si parla, o perlomeno di epidemia, stando almeno a quanto riportato sul suo certificato di morte. Chiese di essere seppellito accanto a un altro filosofo, Johann Gottlieb Fichte, morto di tifo 17 anni prima. Hegel è stato considerato il filosofo ufficiale dell'assolutismo prussiano, ma sono molte le tessere anomale che non permettono di completare coerentemente il puzzle di questa immagine. Da giovane scrisse opere sovversive che si guarda bene dal pubblicare, sostiene la necessità dell'abolizione dello Stato, manda alle stampe testi politici anonimi, intreccia nel corso di tutta la vita rapporti con rivoluzionari, liberali ed ebrei, fino ad aiutare un prigioniero politico. I funzionari del governo della corte disertano infine il funerale del filosofo e, che se ne sappia, non inviano messaggi di condoglianze. Sulla base di queste circostanze, Jacdon sostenne che dietro la rinomata oscurità del periodo hegeliano si nascondesse un filosofo tutt'altro che conservatore, ipotesi che riceve un indiretto sostegno anche dalle persecuzioni giudiziarie della maggior parte dei suoi collaboratori. Di questo ci parla Vladimiro Jacquet, che ci continuano a dire su Carmilla Online, come professionista del mondo finanziario e autore di opere di storia economica come Anschluss. Adesso, con la nuova monografia dedicata a Hegel, scopriamo che dietro quelle analisi eterodosse sull'euro e la crisi economica, non a caso nelle dirette precedenti abbiamo parlato delle ripercussioni economiche che il coronavirus potrebbe avere, sia nella dimensione piuttosto ridotta della città di Firenze che in misura per l'appunto pandemica a livello, insomma, mondiale. E scopriamo che dietro quelle analisi eterodosse sull'euro e la crisi economica si nasconde un motore filosofico capace di pensare la complessità con una potenza da mille cavalli vapore. Quindi questo libro è un'introduzione che illustra con grande chiarezza i temi chiave del filosofo tedesco, accompagnandoli con una ricca sezione antologica. Forse questo è quel decimo di cose relative a Hegel che forse vale la pena leggere. La filosofia di Hegel, quindi parliamo di realtà, di realismo, di un qualche cosa di assolutamente aderente a quanto appare ai nostri occhi, che possiamo toccare con le nostre mani, è un viaggio verso la soggettività, come capacità del soggetto di essere una struttura autocentrata, in grado di conservarsi e mantenersi in unità con sé nel rapporto con l'esterno. Non è casuale, quindi, che la Fenomenologia dello spirito sia stata pubblicata nel 1807, quando in Germania erano diffusi i primi romanzi di formazione. Si pensa al Wilhelm Meister di Goethe, all'Enrico di Novalis, all'Iperione di Hölderlin, ma anche, andando in Francia, all'Emilio di Rousseau. In queste opere letterarie, afferma Vladimiro Jacquet, quindi l'autore di questo libro sulla dialettica di Hegel, veniva descritto il duro e necessario cammino costellato di difficoltà e sconfitte attraverso cui il protagonista della narrazione poteva infine giungere alla conquista della verità su se stesso e sulla sua vita. Similmente in Hegel la verità non è mai un semplice risultato da contrapporre alla fallacia, ma il percorso della coscienza che proprio, superando errori, apparenze di visione del mondo, forme di religione e relazioni sociali, si eleva al sapere assoluto, cioè alla verità che incorpora in sé anche le tappe precedenti del cammino intrapreso. In questo modo, la verità assume un carattere processuale, è il risultato di un approfondimento, di uno scavo nelle implicazioni delle categorie del pensiero, dalle più semplici alle più complesse, in un percorso in cui le prime rimandano, conducono alle seconde. Quindi un viaggio filosofico, quello della dialettica, mossa dalla negazione determinata, a partire da una concettualizzazione multidimensionale, vabbè, della realtà, e mostra il lato di ogni cosa, il suo essere mero momento di cammino infinito. E insomma, vediamo poi, non sto ad andare oltre perché effettivamente si parla di tematiche, come dire, piuttosto complicate, però va ribadito che l'intelletto è il pensiero della singola tappa e può andar bene per realtà semplici e statiche. Se ci confrontiamo però con fenomeni complessi e interattivi, un organismo vivente, un sistema sociale, una crisi economica, uno sconvolgimento dello status quo, allora abbiamo bisogno delle facoltà della ragione, che sa pensare attraverso la contraddizione. Ecco perché Hegel, ai tempi della pandemia, ecco perché l'autore di questo articolo di Carmilla Online ha voluto dare questo titolo al suo scritto. E nel post-scritto alla seconda edizione del Capitale, Karl Marx stigmatizzava la generale disposizione a trattare Hegel da cane morto. È un monito valido anche al giorno d'oggi, perché quando dietro le catastrofi sanitarie si nascondono rimosse quelle sociali, le apparenze feticistiche prima o poi si dissolvono, dogmi e parametri cadono a pezzi e perfino i morti possono tornare nel mondo dei vivi. Quindi questo era un articolo estremamente interessante che ci porta dal mondo etereo, degli dei greci, dell'inferno, della capitale dell'inferno di Miller, a ciò che stiamo vivendo, e quindi il bisogno e la necessità di utilizzare la nostra ragione e il nostro senso critico per poter interpretare quello che sta succedendo intorno a noi, che forse nient'altro è che il cuore della filosofia vera. Ho dato una dentata sul microfono intanto che concludevo questo super parapippone. Eri andata benissimo, ma ti sei fregata alla fine, vabbè. No, grazie di questo excursus nell'articolo, tra l'altro una rivista, una webzine molto bella, Carmilla Online, e vi consiglio a tutti di guardare qualcosa trovate. Io mi ricordo tanti anni fa trovai delle cose anche stranissime, degli articoli su Kenneth Anger, che era un grandissimo regista. Ah, tuttora vivo, sì, è vero, regge. Vi volevo intanto dire che ci è arrivato un pezzo in forma anonima che si chiama Tiny Creatures, piccole creature, di non so che formazione sia, ma insomma anonimo, e quindi tra un po' ve lo faccio ascoltare. Ma insomma, come ci è arrivato? Ci è arrivato attraverso l'indirizzo di posta di Radio Wombat, che sarebbe postawombat@insiberia.net. Mai più che ora, guardate un po' il sito della radio, che ora non mi ricordo qual è, ma insomma, se ci state ascoltando vuol dire che ci siete arrivati, se no se avete qualche problema dei grossi problemi, insomma. E quindi il sito lo sapete, però se leggete, oltre ad andare sul sito e digitare stream, streaming, così potete anche leggere via via quello che c'è nelle notizie, a parte tutti i podcast raccolti da quasi 4 anni ormai ad oggi. Questo è un periodo particolare per cui la Rai più che mai pensiamo che abbia un grosso valore sociale all'interno di una desocializzazione imposta, poi per motivi appunto di sanità, poi per altri miliardi di motivi. Comunque ci troviamo in realtà tutti male. La radio è un po' un aiuto per tutti, diciamo, quindi ascoltatelo ogni giorno. Tra l'altro c'è una diretta che parte dalle 7 fino alle 9, sempre diversa, quindi è un po', non si sa, è un po' imprevedibile, diciamo. Quindi anche il bello, il vero bello della diretta di una radio che crede star dietro anche alle persone che appunto oggi purtroppo sono quasi condannate a stare a casa come se fosse una prigione. Quindi questi ho finito la parapippa, questi personaggi ci hanno mandato questo Tiny Creatures sotto forma anonima, e adesso ve lo facciamo ascoltare. Buon ascolto. Yeah. tracce anonime e ectoplasmatiche sulle frequenze di Radio Wombat in questa diretta. Sono le 20:28 e sicuramente vi terremo compagnia ancora più o meno per 40 minuti per dare poi la linea, ovviamente, all'onnipresente 8 Hz. Siamo arrivati così alla terza, penultima parola della serata, che è Panopticon, filosofia e di nuovo filosofia, ma andiamo forse nel versante opposto. E ci spostiamo quindi da quella che è la nottola di Minerva di Hegel, quindi il culmine della realtà. La nottola di Minerva era il gufo di Minerva che simboleggiava la saggezza, dote che apparteneva alla dea. Allora, Panopticon o Panottico è un carcere. Il carcere, tra virgolette, ideale, perlomeno immaginato, nel 1791, eppure progettato dal filosofo e giurista Jeremy Bentham. È una struttura particolare che permetteva a una persona di avere il controllo totale su tutti i carcerati e i prigionieri. Un termine questo che è diventato poi anche una metafora, è un termine che ha avuto una risonanza molto grande, come appunto l'allegoria di un potere invisibile che ha ispirato pensatori e filosofi. Pensiamo a Foucault, pensiamo anche e soprattutto alla contemporaneità, con Noam Chomsky, con Zygmunt Bauman. La mia emilianità mi provoca qualche problema nel pronunciare il nome di Zygmunt, vabbè. E ovviamente lo scrittore britannico George Orwell, nel romanzo, ovviamente, 1984. Quindi, il Panopticon ha un concetto alla base della sua progettazione, che è, come vi dicevo prima, quello di permettere a un unico sorvegliante di osservare Opticon tutti i pan, i soggetti di questa istituzione carceraria, senza permettere a loro di capire se in quel momento fossero controllati o meno. Il nome ovviamente si riferisce al gigante Argos Panoptes della mitologia greca, quindi un gigante con un centinaio di occhi e per questo considerato un ottimo guardiano. E parliamo invece ora di quella che è la visione del Panopticon Escape, quindi porto un po' di brusca con me. Purtroppo di Chomsky ho trovato quasi nulla, sempre a proposito del Panopticon, però ho trovato altri riferimenti. Quindi, la visione panottica, che cos'è? È una visione differenziale asimmetrica, non solamente perché è sbilanciata dal punto di vista di una persona soltanto, ma perché si presta perfettamente ad esemplificare quello che è il controllo sociale. Ed è anche, vabbè, una metafora della prospettiva rinascimentale, però insomma, lasciamo perdere le virtù, parliamo dei difetti. George Orwell ne parla nel romanzo 1984 come con il teleschermo che ha un ruolo fondamentale, che fa già l'apparizione nella sua prima pagina, quindi vi spoilerò qualcosa se non avete letto il romanzo, ma non dovuto. Un teleschermo che è acceso in tutte le case, non si può mai spegnere ed è obbligatorio assistere a queste trasmissioni di propaganda. Il teleschermo riceve e trasmette contemporaneamente e tutto ciò che avviene nella casa viene trasmesso via cavo a un centro di controllo, probabilmente della polizia, che non si può mai sapere se in quel determinato momento ti stia effettivamente osservando oppure no. Che succede? Succede che, tornando indietro ai tempi di Foucault stesso, nel 75, riprende questo concetto, questo progetto fortunatamente fallimentare che Bentham non ha mai potuto mettere in atto. E in Sorvegliare e punire del 1975 il Panopticon viene un po', come dire, scisso in alcuni elementi. La visibilità, che assicura il funzionamento del potere, la sorveglianza, quindi a sua volta la prevenzione, evita il ripetersi di un reato che Foucault chiama colpa, e la punizione, che assicura la modifica del comportamento che a suo tempo generò la colpa. E sono queste forme del potere moderno, dove ogni superiore spia i suoi sottoposti e a sua volta è spiato, osservato da istituzioni che tendono a essere sempre più totalizzanti, disciplinari e chiuse. E quindi vediamo come il panopticon sia una metafora, se così vogliamo dire, della realtà. C'è anche un libro scritto a quattro mani da ovviamente Zygmunt Bauman, accidenti sto nome, e David Lyon, una sorta di conversazione a distanza, che si chiama Sesto potere, la sorveglianza della modernità liquida. Quindi dai tempi di Foucault del 1975 facciamo altri passi avanti, attualizziamo ancora di più il concetto di panopticon e cerchiamo di applicarlo. Queste due menti pensanti, Lyon e Bauman, interpretano il panopticon secondo la loro formazione e la loro specializzazione. David Lyon è un analista dei problemi di sorveglianza, Bauman invece è un filosofo che ha sostituito il concetto di modernità liquida alla categoria della postmodernità e arricchiscono ancora di più gli scenari dipinti da Orwell e a suo tempo da Foucault. E per riassumere un po' quello che viene detto in questo libro, vediamo che i due cervelloni pensanti creano quattro tesi di fondo. 1. Viviamo in un mondo post-panottico in cui le forme di controllo nuove e di sorveglianza assumono le caratteristiche tipiche del consumo e dell'intrattenimento. Molto facile da capire. 2. I principali oggetti al centro dell'attenzione dei sistemi di sorveglianza non sono le persone in carne e ossa, ma i loro doppi elettronici e quindi i dati che li riguardano. Vedete, stiamo facendo un passo verso la contemporaneità. E 3. Ciò che più dobbiamo temere non è la fine della privacy e dell'anonimato, bensì l'inquadramento in categorie in grado di determinare a priori il nostro futuro di consumatori e di cittadini. In l'ultima tesi, la costruzione di questa macchina infernale procede con la collaborazione spontanea, se non addirittura gioiosa, delle sue vittime. E quindi ora, diciamo, nel volume poi queste quattro tesi vengono illustrate in maniera un pochettino più ampia, perché il panopticon implicava la concentrazione dei soggetti sottoposti alla sorveglianza in determinati luoghi, carceri, fabbriche, scuole, ospedali, e sfruttava il cosiddetto controllo delle anime, quindi come strumento per cambiare comportamenti e le motivazioni. Lo sguardo, temuto ma non visto e quindi presunto come costantemente presente, del controllore induce l'autodisciplina dei lavoratori, dei prigionieri, dei pazienti e degli allievi che si adeguano alle aspettative del sistema di controllo per non subire sanzioni. Queste modalità punitive, se così vogliamo dire, osservano i due autori, quindi Lyon e Bauman, e riguardano le zone ingestibili della società, come le prigioni e i campi profughi. Sono cioè riservate agli esseri umani dichiarati, tra virgolette, inutili ed esclusi nel senso pieno letterale della parola, i famosi outcast. Viceversa, invece, il nuovo potere globale, che viene contrapposto in questo volume al potere politico tradizionale confinato nel locale, non si esercita erigendo barriere, recinzioni e confini che vengono considerati semplicemente come ostacoli da superare, perché questo potere deve raggiungere tutti in modo da poterli valutare e giudicare uno a uno, e quindi per questo ognuno deve essere motivato a esporsi volontariamente al suo sguardo e anzi a cercarlo avidamente più che sottrarvisi. E questo è un po' così la rivisitazione, anzi l'approfondimento, l'attualizzazione del concetto di panopticon che ci troviamo un po' ad affrontare anche oggi, non inteso come oggi, come il 2 aprile del 2020, ma come, diciamo, metafora, un po' il leitmotiv delle nostre vite, se così vogliamo dire. Ci sono tantissimi articoli in rete che parlano di questo tema, basta semplicemente digitare per esempio prigione di telecamere ed ecco che vi usciranno tantissimi risultati riguardanti questo panopticon moderno. Allora, mettiamo qualcosa che ha a che fare con il panopticon. Ovviamente non vi metterò qualche brano degli Isis, perché anni fa fecero un disco che si chiamava Panopticon e il più delle persone di una certa cultura musicale conoscono, ma non vi metterò questo, tutt'altro. Metterò un pezzo più, diciamo, con un'aria totalmente diversa dal presumalismo. È un pezzo dei Fyros, che era un gruppo che uscì per la SST, in cui i membri erano, due membri erano dei Minutemen, ovvero Mike Watt al basso e George Harley, o ciuffo di cuoio, alla batteria, che quando morì Di Bon, poverino, venne su, in un momento di depressione, Mike Watt, apparì Ed Crawford alla chitarra e alla voce, che lo fece un po' riprendere. E questo pezzo è tratto dal terzo disco, è From Ohio, perché tra l'altro Ed Crawford è From Ohio, e si chiama Liberty for All Friend. For our friend, our friend. Con questo pezzo volevo augurare la libertà a tutti gli amici e a tutte le amiche, di vederci il prima possibile e abbracciarci tutti calorosamente. E quindi non mi ricordo ora cosa succede. Ah sì, devo passare la parola alla regia, all'altra regia. Chi se lo sarebbe mai aspettato da 8 Hertz, una dimostrazione di affetto globale che parla addirittura di abbracci, eppure è così. Comunque, volevo anche un attimo, appunto, Liberty for Our Friend dei Fyros mi fa venire in mente una cosa. Ve li ricordate Edward Snowden o Julian Assange? Bene, questi frammenti che vi ho letto del Panopticon nella sua visione postmoderna e superattuale derivano da un articolo che si chiama Sorvegliate Felici. E si è ricominciato a parlare di Panopticon, in particolar modo del modello di Panopticon di Orwell, quando è successo lo scandalo Snowden, che si è succeduto di poco a quello di WikiLeaks. Quindi con le preoccupazioni di uso intensivo di cosiddetti media digitali come strumenti di sorveglianza pervasiva, e queste preoccupazioni sono poi aumentate dopo le rivelazioni appunto di Snowden sulle pratiche di spionaggio che venivano messe in atto dai suoi ex datori di lavoro, quindi la maggiore agenzia di sicurezza degli Stati Uniti, ai danni dei cittadini americani e di tutti gli altri paesi, nonché di capi di Stato e di paesi. Quindi mano a mano che Snowden rendeva noti i documenti mentre era rifugiato in Cina, che denunciavano queste pratiche, quindi intercettazioni di conversazioni telefoniche, di email, i media sfoderavano immancabili questi riferimenti a Orwell e al Panopticon di Bentham, che era appunto l'emblema di una modernità assurda a regno della sorveglianza e del controllo. Questo lo potete trovare appunto nel libro di cui vi parlavo prima, Sesto Potere, la sorveglianza della modernità liquida. Libri, volumi, spunti, articoli che è bello leggere perché questo cosiddetto tempo lento a nostra disposizione, insomma, possiamo, come dire, coltivarlo e renderlo un pochettino più vivido o critico a seconda dell'umore della giornata. E ora, che dire, ripasso la parola alla regina di Ottoranza. Allora, parlando di Panopticon, ho trovato questo gruppo, questo progetto, non so se sono una persona sola, si chiama DSCRD, presumo sia un'abbreviazione di Discord, e l'EP si chiama Panopticon, loro sono, o lui è francese di Parigi del 2008. Non è il primo album, l'ho trovato molto interessante, è una roba elettronica un po' minimale, di quelle che piacciono a chi ascolta 8 Hz, ed esce per Demented Records, e vi do un buon ascolto, secondo me è fighissimo. Second Zone dei Discord da Panopticon EP. Grazie a 8 Hertz per la selezione musicale e il viaggio in queste parole che delineano la nostra serata e la nostra diretta che in più o meno un quarto d'ora volgerà al termine. Parole che appunto insomma spero vi siano piaciute, che possiate applicare anche alle vostre, nostre realtà momentaneamente di reclusi. E però mi è venuta in mente una cosa che sempre riguardo al Panopticon, in realtà come dire, questo termine poi si è evoluto, quindi cambiamo un po' le radici, la radice del termine, che non è più pan ma diventa ban e sin, per poi ritornare, perché ovviamente l'ultima parola che concluderà la trasmissione questa sera ovviamente è preceduta da pan ed è pandroginia. Però il Panopticon appunto non è più utilizzabile secondo Lion e Bauman, perché la sua costruzione circolare che consente ai carcerieri di vedere i detenuti senza essere visti è simbolo della modernità solida, mentre noi ora siamo nella modernità tra virgolette cretera quasi, e quindi al suo posto vengono insediati i Panopticon. Quindi le raccolte di dati in base alle quali si costruiscono i profili dei soggetti, in questo caso da escludere, è un Sinopticon che coinvolge ogni persona nei processi di sorveglianza. E quindi il libro scritto da questi due cervelloni si apre enfatizzando il ruolo dei droni, le macchine volanti sempre più miniaturizzate, che in questo caso in questi giorni sono effettivamente un po' alle luci della ribalta delle notizie, che sono capaci di giungere in ogni luogo, di impadronirsi dei dati in una condizione di quasi invisibilità. Emblema quindi estremo della liquidità. Dunque, questo sottofondo ce lo presenta 8 Hertz. Questo sottofondo è di parole di William Burroughs. Musica è un pezzo dub, l'ha fatto perché da poco del dub, cioè me ne frega, però nel senso non sono fissato. Però non si chiama Dead Soul, l'ho trovato sui canali, sui vecchi canali diciamo, e serve, a parte che è molto carino in realtà questo brano. E William Burroughs serve un po' da ponte per appunto la pandroginia, diciamo, però mi viene sempre in mente la pandemia, no? Che anche lui era una sessualità diciamo espansa, sudaticcia, e come direbbe Moretti, no, a parte gli scherzi, e insomma lo trovo bene anche per il gruppo che è in scaletta dopo, per cui insomma ci sarebbe tantissimo da discutere, ma intanto direi di sentirvi questo brano. Era curioso il nome, ora me lo sono scordato. Ecco, allora, il mix dub è di Dub Spencer e Trans Hill. Mi sembra un nome geniale. Tanto ascoltatevelo. Thank you. appears on television and gives the American people a finger. I got mine. Fuck you. Every crumb for himself. Quasi che stia arrivando l'estate con questo dub in sottofondo. E Dub Spencer e Trans Hill sulle parole mixate di William S. Burroughs. E volgiamo verso il termine di questa diretta e con l'ultima parola, che è oltre il queer forse, ma precede il queer, pandroginia. È facile intuirne non soltanto l'etimo, ma anzi la composizione, perché fondamentalmente è un neologismo, come quasi tutte le parole che abbiamo trattato questa sera. Anche il panopticon lo è, un'assimilazione in realtà. E pan andro e gin, per cui tutto donna e uomo, tutto uomo e donna. E chi meglio di un mitico Genesis P. Oldridge, che in noi ci ha abbandonati il 9 marzo scorso all'età di 70 anni, potrà come dire, inglobare questa definizione che lui tra l'altro ha utilizzato per quasi tutta la sua vita, o perlomeno sicuramente dalla fine degli anni 80 e negli anni successivi, quando c'è stato il fatidico incontro che ha cambiato la sua vita con Lady J, che poi nel 94 è diventata sua moglie, nonché anche il, diciamo, l'epilogo molto doloroso di uno dei capitoli della sua vita. Ebbene, sì, c'è tantissimo in rete a proposito della pandroginia, è un termine che viene utilizzato un po' in maniera a volte erronea perché non si conosce bene, però insomma ci sono tantissime fonti nel web che potranno spiegare meglio di noi che cosa c'è dietro questo movimento, dietro questo termine. E quindi insomma questa è la parola conclusiva della serata, quindi l'excursus dalla mitologia alla filosofia dura e pura della realtà, però un pochettino rivisitata, al concetto di carcere, di libertà, fino a noi stessi, quindi a tutto ciò che noi potremmo e possiamo essere. Ho detto una fricchettonata forse. Forse sì, no, vabbè, al di là di quello ci sono tantissime cose da dire su Genesis P. Oldridge, quindi non è il caso dell'ora che siamo in chiusura, purtroppo tantissimi aneddoti mi vengono in mente. La cosa sì che per me è interessante, appunto, parlare di androginia, che a parte l'ho conosciuta su comprando un CD loro al primo concerto che vidi a Bologna al TPO, che fu un concerto veramente epico, assurdo, allucinante. E praticamente loro vendevano un doppio CD che si chiama God Star The Director's Cut del 2004, in cui praticamente era una sorta di musica per un documentario che non è mai uscito, su Brian Jones dei Rolling Stones, perché Genesis ci vedeva un po' la figura androgina totale, diciamo. Quindi insomma, partito tutto da un delirio. In realtà l'apporto è giustissimo, cioè sentirsi sia un corpo femminile con corpo maschile, lui l'ha dimostrato negli anni fino alla fine, lui e la sua compagna hanno dimostrato tentando di diventare, di assomigliarsi a vicenda, di diventare la stessa persona, diciamo. Ricordiamo che Genesis Piorige è stato in tutto l'arco della sua vita, a parte aver fondato uno dei due, diciamo, gruppi industrial storici, uno sarebbero i Throbbing Crystal, cioè il gruppo dove ci suonava lui, l'altro sul Zend Neue Bauten tedeschi, che avevano, diciamo, due filosofie opposte ma vicine come modo di far musica. I Throbbing Crystal, sfruttando pochi synth che creavano molti rumori neanche troppo costosi, servivano a riprodurre un po' i suoni de merda contemporanei. Gli Sturzende agivano tramite dei rumori veri, quindi con chivelle, trapani, tutto quel calci a carrelli della spesa, così, insomma. Quindi sono due cose ben diverse. E oltre a questo, ha sempre, diciamo, sto parlando a ruota libera, quindi scusatemi, ha sempre, diciamo, è sempre stato una persona che la body art, da dopo gli anni 60, dopo il boom degli anni 60, l'ha continuata a praticare con un concetto, a differenza di tantissime persone o tantissimi artisti, ovviamente ha dato un senso a quello che faceva, e l'ha dato sulla dimostrazione dell'andare avanti sul discorso di genere. Quindi, insomma, per me è molto importante come figura. Adesso andiamo a sentire proprio il Godstar, che in realtà, aspetta, lo devo mettere intanto. Sì, dilla. Che Marina Abramovic ce l'ho più pagato. No, Marina Abramovic è venuta prima, è stata molto importante, magari senza di lei anche Genesis faceva meno, però insomma ad oggi ce l'ho pure. Comunque Godstar in realtà il primo singolo uscì nel la prima versione uscì nel 1988 in Allegory and Self. È proprio una sorta di leitmotiv della colonna sonora di questo film che non è mai uscito, su Brian Jones. Buon ascolto, PsyTV Godstar. Yeah. Dunque, la puntata dopo il Psychic TV con Goldstar volge al termine, quindi io, Nina e Otto Hertz qui nella regia divisa da un vetro nella quale ci passiamo il microfono in una delle mille grotte del Wombat in giro per la città del Giglio e chissà dove, vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccio e vi ricordiamo scriveteci a postawombat@insiberia.net, scriveteci anche sulla pagina Facebook di cui non mi ricordo mai il profilo, ma deve essere Radio Wombat Firenze, o su Twitter Radio Wombat Fi. E nulla, vi diamo appuntamento chissà quando, forse per una prossima diretta nei prossimi giorni, e ora vi passo 8 Hertz che vi vuole salutare calorosamente. Sì, ciao, grazie che siete stati con noi, spero che vi sia piaciuta la diretta, grazie a Radio Wombat fondamentalmente, grazie a tutti, vi lasciamo con un pezzo, un live, un brano dei Ministri che si chiama The Fall, tratto da Sphincter del 2001, con un disco di vari live che sono stati fatti in quei due anni di tour di Filth Pig e via discorrendo. Ministri, la caduta dal vivo, la caduta per tutti. Buonanotte. Ah, dopo c'è 8 Hertz, non potete sfuggire.